casa sopra un prato bianco, con la camicia aperta al cielo, con le tue fredde mani sopra i miei caldi seni. Le tue carezze sono nuvole, il desiderio ormai acceso, ed il tuo corpo caldo, non sento più il peso. Vado verso il paradiso e lì ti incontrerò. Perderò. Ah, ah, ah, ah. Tu accarezzi i miei capelli, abbiamo il viso dell'amore, si calma piano piano battito del cuore. Vado verso il paradiso e lì ti incontrerò.